Rime, come, quan, giova, mare, dove, trova, sulla, sala, pure, quane, sole, quan, giova, muova. Siamo soli, fratello, soli in mezzo alle bombe, tutti ancora insieme, ancora in piedi, armi pronte. Siamo solo fratelli, soli in mezzo alle bombe, allora rullino i tamburi e squillino le trombe. Sale pure quando c'è sto sole, si stai sul mezzo mare, quando chiovono le rime, dici vuoi solo attaccare per provare a non andare a fondo. Che paglia viglia non scarpa, paglia mai scarsa, saglia e collassa, coglia non scassa, tutto non passa e tinta una fossa, che ho passata da lassa. Va bene, quando tutto fa male va bene, tutto quello che sale sostiene, ogni tanto che il bene. Ascoltami che stiamo tutti da stessa nave, senza avere motore e remi, tutto quanti viene i problemi, tutto cancio da vima buono, tutto catenato una nata, tutta stanca e disarmata, non si trovano via d'uscita, ma frate finché c'è vita, si va e si viene insieme, si va, si viene, si torna insieme, si va e si viene, si torna insieme. Bene, quando tutto fa male. Stop.